Steve a mis au point différents réservoirs. Statement, any minute from now. So 1-0 up. Ci sono novità anche su. Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, buona domenica e bentornati alla finestra sul cortile. Oggi parleremo di politica dei sessi e di rapporti tra sesso e politica, di donne spia e di donne scienziate. Come nei film di James Bond, come nel mondo di Mata Hari, anche oggi l'eros, le arti della seduzione, femminile ma pure maschile, vengono usate per insinuarsi nelle file dell'esercito nemico, nelle stanze del potere di uno stato straniero e per carpirne i segreti. Ma oltre che nelle strategie amorose, dove, se mi si passa una battuta sessista, sono da sempre imbattibili, le donne di oggi possono competere e avere la meglio sugli uomini nelle carriere scientifiche? A Harvard e in altre università americane la pensano così. Insomma, non solo Pretty Woman, ma anche Beautiful Mind. Adesso però ascoltiamo prima di tutto che cosa prevede la puntata di oggi nel nostro sommario. Cina, sesso e spionaggio. I cinesi puntano sulle Mata Hari per vincere la guerra economica con l'Occidente. Germania, studiosi tedeschi vogliono decifrare il Corano. Francia, visti dagli altri, il 68 secondo Michele Placido. America, donne e matematica, Harvard si tinge di rosa. Irlanda, l'effetto Mrs. Robinson, molte donne irlandesi apprezzano la compagnia di uomini più giovani. Era inevitabile e, se volete, anche un po' scontato usare questa colonna sonora per introdurre il primo argomento della puntata di oggi, che è per l'appunto lo spionaggio che abbiamo visto nei film di James Bond. E proprio agli aspiranti James Bond e Bond Girls del mondo d'oggi è dedicato un articolo su Foreign Policy di Philip Knightley, autore tra l'altro di un libro intitolato The Second Oldest Profession, la seconda professione più antica del mondo, spie e spionaggio nel XX secolo. Di cosa si occupa Philip Knightley in questo articolo? Si occupa di quello che lui definisce e che i servizi segreti britannici definiscono honey trap, cioè la trappola di miele. Di cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente dell'uso di esche sessuali e di arti di seduzione per carpire dei segreti e per ricattare gli avversari oppure una potenza straniera, per esempio anche nel campo delle relazioni economiche, non soltanto nel campo quindi del confronto militare. Difatti l'allarme che ha lanciato nei mesi scorsi il servizio di sicurezza inglese è proprio che i cinesi, la Cina popolare, sta cercando di insinuarsi nel mondo del business occidentale sfruttando delle relazioni erotiche tra gli uomini d'affari e persone e donne della Cina, in modo che così questo possa in qualche modo prestarsi a delle azioni di ricatto e di pressione per ottenere dei vantaggi economici negli scambi commerciali. E in questo articolo Philip Knightley fa praticamente una specie di decalogo, anzi pentalogo, cioè prescrive alcune norme di comportamento, alcune misure cautelari per evitare di cadere in queste trappole di miele, e racconta alcune storie celebri di appunto agenti segreti che sono stati smascherati e intrappolati attraverso la seduzione di donne o anche in un caso di un gay. Il caso più famoso, quello dell'86, è quello di Mordecai Vanunu, un tecnico israeliano che raccontò ai giornali britannici che Israele stava preparando l'arma nucleare. Vanunu a un certo punto viveva nascosto perché per ragioni di sicurezza si innamorò, incontrò una signora molto affascinante, se ne innamorò, programmò un weekend romantico a Roma e in questo weekend fu catturata dai servizi segreti israeliani del Mossad, portato in Israele, processato per alto tradimento e condannato a ben 18 anni di prigione. Proprio per parlare di questi rapporti, insomma, tra Eros e spionaggio, abbiamo al telefono un ospite che salutiamo e ringraziamo, il professor Stefano Silvestri. Buongiorno. Buongiorno. E buona domenica. Il professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di relazioni appunto internazionali, di strategie e credo anche appassionato di spionaggio, forse anche lettore di romanzi di spionaggio. Ecco, ma... ecco, si potrebbero fare degli esempi anche più recenti di quelli che fa in questo articolo Philip Knightley, insomma, dell'uso di queste trappole sessuali per irretire? Credo che sia una delle cose più comuni, diciamo che l'esempio più noto in realtà è quello che lo stesso Knightley fa questo articolo, cioè quello pianificato attentamente dalla Germania dell'Est. Certo. Che ebbe la caratteristica di non mandare in giro soltanto o soprattutto signorine, ma signorini. Certo. Cioè quelli che chiamava i Romeo, chiamati da loro i Romeo, che dovevano sedurre le donne sempre più in posizioni di responsabilità amministrativa o anche di responsabilità dirigenziale nelle strutture occidentali. Una addirittura si insinuò nell'ufficio del cancelliere tedesco Schmidt, no? Sì, che inguaiò una segretaria molto legata e molto importante per Schmidt, sì, ma fecero furono molti. Diciamo che questo è uno dei tanti sistemi, forse più comune il sistema della corruzione, mentre il più fidato, il migliore sistema è quello della convinzione della spia di combattere per una giusta causa. E quindi certo. sono gli altri strumenti maggiori, ma io credo che sia abbastanza affascinante perché ci ricorda, in un mondo sempre più tecnologico in cui sempre più contiamo sulle intercettazioni, sulle fotografie, su tutto quello che è elettronico per riuscire a carpire i segreti dell'avversario, che in realtà la dimensione umana rimane determinante. E quindi anche la fragilità emotiva, diciamo così. Anche la fragilità emotiva delle persone, certamente, e che poi abbiamo a che fare con individui, quindi tutti gli individui hanno i loro punti deboli ed è possibile sfruttarli. Infatti questo lo vediamo anche in politica interna, perché ci sono politici, adesso siamo in regime di par condicio, non possiamo fare nomi, ma insomma ai vertici sia dello Stato che delle amministrazioni locali abbiamo avuto casi molto importanti di questo tipo. Però appunto mi auguro che non fossero tipo appunto il caso Profumo o altro. Ecco, esatto. Cioè, casi in cui poi si scopriva che le persone coinvolte avevano se non altro una doppia vita, cioè avevano anche dei rapporti con il mondo dello spionaggio. Certo, però la cosa tra l'altro appunto che traspare da questo articolo è che alcuni di queste persone poi non credevano, quando poi venivano messe di fronte all'evidenza si rifiutavano di accettare questa verità, dicevano ma no, mi amava veramente, no? Magari non avevano neanche del tutto torto, no? Sai mai poi quanti quali compromessi, perché diciamo anche la spia, anche il Romeo, anche la Matari ha una sua personalità, non c'è dubbio. E io credo che poi quando entriamo nel mondo dei sentimenti è difficile trovare una linea di demarcazione. Sì, per quanto i servizi segreti vogliano controllare le situazioni, possono sfuggire. Le mano. Bene, noi ringraziamo il professor Silvestri, buona domenica e a presto. Grazie, arrivederci. Il profeta del Corano ricevette davvero la parola di Allah? Se lo chiedono gli islamisti tedeschi dell'Accademia delle Scienze di Potsdam, dove si sta lavorando a un progetto molto ambizioso chiamato Corpus Coranicum, che ha come obiettivo la pubblicazione della prima edizione critica del libro sacro dell'Islam. Tra i mille problemi di una tale impresa filologica, quello innanzitutto di capire cosa Muhammad abbia davvero scritto, poiché la scrittura araba non annota le vocali e quindi produce delle frasi dal significato molteplice, il contrario della parola di Dio che non può che essere una e una sola. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani eccellenti all'estero ci porta questa settimana a Parigi, dove il nostro Michele Placido viene intervistato da Christophe Carrière sull'Express a proposito del suo film Il Grande Sogno, che viene proiettato sugli schermi francesi con il titolo Le Rêve Italien, nella patria del maggio. Evidentemente hanno deciso di dargli un titolo più connotato in senso nazionale. Tra le tante domande che vengono fatte dal giornalista dell'Express ce n'è una sul significato del 68 e dice Placido: dappertutto nel mondo in quell'anno la gente scendeva nelle strade, qui contro la guerra in Vietnam, là per i diritti civili dei neri o per i diritti sociali dei lavoratori. Poi è tornato il materialismo e l'egoismo primeggia, si vuole la macchina, la casa, il resto ha poca importanza. Ma non sarà che appunto tutto questo individualismo è cominciato con il 68 dell'imagination au pouvoir, che si è partiti dal grande sogno per finire al grande fratello? La finestra sul cortile. Adam Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? È questo? Giusto, questo? Giusto. Incompleto. Incompleto. Ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé e per il gruppo. Dinamiche dominanti, signori. Dinamiche dominanti. Adam Smith si è sbagliato. Era uno spezzone del film Beautiful Mind con Russell Crowe nei panni di John Nash, premio Nobel per l'economia, insigne matematico, e proprio di matematica parleremo in questa seconda parte della finestra sul cortile, perché come forse molti ricorderanno, 5 anni fa Lawrence Summers, che allora era presidente dell'Università di Harvard, fece una celebre gaffe in pubblico che gli attirò le ire di tutte le femministe americane, ma non solo, perché aveva sostenuto che c'era una differenza innata nel cervello delle donne, la quale avrebbe spiegato, secondo lui, il fatto che appunto le donne in scienza e in matematica avessero meno successo, anche accademico, degli uomini. Bene, Tamar Lewin, una inviata del New York Times, è tornata a Harvard 5 anni dopo per vedere che cosa è successo nel frattempo. E sono successe molte cose, perché per esempio Lawrence Summers se ne dovette rassegnare le dimissioni dopo la tempesta suscitata da queste sue parole. Attualmente è il principale consigliere economico del presidente Obama, ma è stato sostituito per l'appunto da una donna, la prima donna al vertice di questa famosa università americana, che si chiama Drew Gilpin Sleeping Faust. Beh, che nome! Forse ha fatto un patto col diavolo per raggiungere un incarico così prestigioso. Ma la rivoluzione non si ferma qui, perché ormai un quarto dei membri di facoltà di Harvard, dei professori, sono donne, e donne guidano per esempio la scuola di ingegneria, la Law School di legge, la Education School, l'Harvard College e il Radcliffe Institute. E le offerte di cattedra da ordinario, le tenure offerte nel corso del 2009, sono andate a 16 donne e a 25 uomini. Però ecco, c'è un punto che l'inviata del New York Times deve constatare, che ancora in campo matematico e scientifico, soprattutto fisica e chimica, perché in biologia le donne in realtà hanno fatto molta strada, lì ancora c'è, diciamo, le pari opportunità non sono ancora realizzate. Poco dopo il famoso discorso di Summers, una professoressa di matematica, Lauren Williams, fu assunta da Harvard, ma qualcuno le disse: ma non è che ti hanno assunta perché volevano una bambina, hanno detto così sarcasticamente, e in effetti il sospetto era fondato. Ma allora perché ancora persiste questo gap? Chiediamolo a una esperta di problemi femminili, una filosofa italiana, Nicla Vassallo, che salutiamo. Grazie per avermi invitato, Riccardo Chieveggio. Grazie di essere con noi, buona domenica. Nicla Vassallo, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Genova, autrice tra l'altro di un libro sui problemi della donna intitolato Donna Mapparve, pubblicato da Codice Edizioni. Ecco, ma questo gap che continua a persistere nel campo delle scienze dure, chiamiamo così, e della matematica, ha veramente una base genetica nella differenza di gender, oppure questa è una leggenda messa in giro dai maschilisti? Dunque, non lo sappiamo, nel senso, in questo senso, le ricerche empiriche che ci dicono che c'è effettivamente un gap vengono smentite da altre ricerche empiriche. Tra l'altro è curioso sottolineare che le donne sono presenti massicciamente ai vertici dell'Accademia in scienze come la biologia, ma non, come è stato precisato, in altri tipi di scienze, fisica e matematica. Come mai la biologia? Perché anche la scienze della vita, forse perché la donna ha più interesse ai problemi della vita. Forse c'è questo pregiudizio nei confronti delle donne. Le donne sono identificate alla fine con le donne madri, per cui le donne che hanno a che fare col vivente, con la riproduzione, per cui certo, la biologia va bene per loro. Non vanno bene invece altre scienze dove, sempre a livello pregiudiziale, dovrebbe prevalere una razionalità di tipo fredda e calcolatrice. Per cui agisce ancora oggi questo stereotipo dell'uomo razionale e della donna irrazionale. La scopritrice delle pulsar, la Belle Barnell, della stelle pulsar, uno tra i Nobel negati, ricordiamolo, ha sostenuto a un certo punto che le scienziate vivono da mancine, in un mondo popolato da soggetti che invece scrivono con la destra. E per me è estremamente significativo, perché questa metafora, cioè sì, venendo invece alla matematica, cosa sappiamo a livello empirico esattamente? Sappiamo che da ricerche di qualche anno fa condotte da ricercatori americani della British Columbia, che quando alle donne viene detto che le loro prestazioni matematiche sono inferiori rispetto a quelle maschili, sì, a causa di fattori genetici, effettivamente durante gli esperimenti manifestano prestazioni inferiori. Quasi come se anticipassero il risultato e volessero confermarlo con le loro... Esatto, con i loro... Precisamente, mentre quando viene loro detto che sono considerate inferiori solo a livello sociale, le loro prestazioni matematiche aumentano in modo considerevole. Insomma, la risposta cambia a seconda di come viene posta la domanda. Ecco, ma in Italia immagino che siamo ancora più indietro dell'America, se già in America ci sono queste situazioni di disparità, no? Non so, nelle facoltà scientifiche o anche per esempio in filosofia, quante donne filosofe ci sono? Opterei per una differenza sui vertici. Sì. Professore ordinario, ad esempio, parliamo di ogni disciplina, sono circa il 15% di donne contro l'85% di uomini in Italia. Andiamo a vedere una schiacciante maggioranza. Andiamo a vedere la Gran Bretagna, che io personalmente ho sempre considerato molto più evoluto, e più o meno a livello di vertici abbiamo le medesime percentuali, quando invece sappiamo, sono dati anche recentissimi, che ad esempio tra i dottori di ricerca ci sono molte più donne che uomini che ottengono il dottorato di ricerca, e a livello di ricercatori ultimamente la percentuale femminile è in netta crescita. Quindi insomma dobbiamo aspettare qualche anno e forse vedremo dei cambiamenti, come del resto dice anche Tamar Lewin in questo articolo del New York Times. Noi ringraziamo Nicla Vassallo, buona domenica e a presto. Buona domenica e a presto a tutti voi, grazie. E ci spostiamo in Irlanda, parliamo ancora di donne diciamo così mature o non più giovanissime, che in Irlanda a quanto pare subiscono sempre di più il fascino degli uomini più giovani. Come disse una volta l'attrice Joan Collins, l'età è irrilevante a meno che tu sia una bottiglia di vino, e questo sembra che sia l'atteggiamento di molte donne famose, per esempio stelle del cinema come Demi Moore, 46 anni, che sta con Ashton Kutcher, che ne ha 31, o Madonna, che ha 28 anni più del suo compagno Jesus Lutz, o Mariah Carey, che ha 10 anni più del suo marito Nick Cannon, di 29. Ora anche le donne irlandesi, per l'appunto, secondo i sondaggi, il 38% delle donne oltre i 50 anni ammettono che un uomo più giovane in qualche maniera le stuzzica di più. Si vede che nella cattolica Irlanda piacciono i più giovani, anche negli oratori. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica a tutti.